volta il cuore impazzì, ma non ricordo mai l'ultima. Forse ora o fra un attimo ancora ho lasciata morire in un bacio, lasciata morire in un bacio. Il vento che danza con le foglie impazzite come un poeta alla luna, ubriaco di vino, di gloria, di guerra, non chiede e non vuole fortuna, non chiede e non vuole fortuna. Ridere, piangere, giocare all'amore, amare con troppo pudore, ridere, piangere, giocare all'amore, giocare con troppo pudore. Ho scritto canzoni, canzoni d'amore, ma senza capirne mai il senso. Ho sporcato di un chiostro il mio cuore per nulla, ma forse nel nulla c'è un senso. La luna, ubriaco di vino, di gloria, di guerra, non chiede, non vuole fortuna, non chiede, non vuole fortuna. Il tempo scivola via tra pianti e sussurri d'amore, il vento passa e si porta via l'ultima lacrima di dolore. Lacrima d'amore. Sole basso e rosso all'orizzonte, ma vorrei averti ancora. La truffa è finita, il cuore ha preso ormai le vie.